Dialogo 29. Raccontò Aisha: un beduino andò dall'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la abbia in gloria, e vedendo che stava baciando dei pargoli, disse: che è questo fatto di baciare i pargoli? Noi non li baciamo. Allora l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la abbia in gloria, disse: che posso fare per aiutarti se Allah ha fatto uscire la tenerezza dal tuo cuore?